occhio agli orologi. L'orario è importante, sembra siano le tre. Che succede? Sono le tre. Incomincia? Incomincia Frigider. Esatto. Con chi? Sono le tre. Con chi, ragazzi? Col DJ Ariel. Ariel, coso Ariele. Che bello è. Eccomi qua. Frigider, Frigider, Frigider. Reggetevi forte, si aprono le porte del frigorifero. Va bene, allora per tutti gli amici d'ascolto questo è il vostro momento, il momento in cui potete chiedere qualsiasi cosa. Frigider! Oh, Frigider! Amici ascoltatori, allegria! Salute a tutti! Subissateci, fax, inviateci lettere, letterine, mega messaggini, tutto ciò che vi capita per la testa. Mandate su spedizione, c'è cose d'altro, ecco, molto fiero di rispondere. Dai giganteschi e meravigliosi, lussuosi, nuovi studi, nuovi, di Radio Rock FM, sempre posti in via Locatelli 1, 20-124 Milano. Il DJ Ariele è pronto per una nuova corroborante puntata di Frigider in compagnia di Mister Trombetta, sempre richiesto dagli amici studenti all'ascolto e non solo, dal Gabbiano. Ti ricorda un po' il topo frigo, così? Sì, in archetipo ricorda il topo frigo. La mucca Camilla, che non ricorda nessuno se non la mucca Camilla, perché è unica, più unica che rara. Riccio Pasticcio, tra gli altri della redazione di Frigider. Anche quest'oggi pronti a riempirvi di buon e sano rock and roll fino alle 17. I nostri appuntamenti saranno i soliti e, come spesso e volentieri ricordo, se si inizia col piede giusto siamo a cavallo. Sentite un po' qui. Questo a casa mia si chiama piede giustissimo. Fingernails are good. She said all they ever dicevamo, questa è una chiamata. This is a call, Foo Fighters, con il buon Dave Grohl. Singolo, se non ricordo male, anche primo singolo estratto dal primo lavoro dei Foo Fighters. Lavoro molto molto più grezzo rispetto agli album successivi. Qui eravamo proprio in periodo post Nirvana, tutto sommato fresco. Album molto più grezzo rispetto agli altri. I Foo Fighters negli ultimi anni hanno veramente aperto una scuola di produzione di album, nel senso che come suonano gli album dei Foo Fighters non capita spesso e volentieri ascoltarne così. Però devo confessarvi che, essendo cialtrone e lo sapete, io sono molto affezionato al primo lavoro dei Foo Fighters. Ripeto, molto più grezzo, ma a me le cose più grezze ormai dovreste essere abituati, piacciono di più. Quindi viva, lunga vita al primo lavoro dei Foo Fighters, che potrebbe tra l'altro essere un ottimo disco da presentare nella nostra rubrica il CD da scongelare, che avremo ovviamente anche in questo martedì pomeriggio, e che non saranno i Foo Fighters. Abbiamo iniziato il viaggio proprio ieri con Catartica dei Marlene Kunz, che andremo ad ascoltare nella seconda ora di quest'oggi. Dicevo, si è partiti con il piede giusto, questo per farvi capire che ci ne ascolterete delle belle da qui fino alle 17. Come al solito vado a controllare i santi di quest'oggi, tutti quanti in fila, ve li saluterò tra pochi minuti. Tempo di ascoltarci una bella novità targata The Ataris, assoluta anteprima, Not Capable of Love. Yeah. Ma che gran trasmissione, c'è l'Ariele Cialtrone che delira solo per te. Amiamo i nostri vestiti, nessuno potrà mai levarceli. Un giorno ci siamo giurati che sarebbero stati gli unici. Aspetta la sera per smettere, poi trova tre disperati, contenti di essere liberi. Ma noi non siamo puliti, sogniamo per non lavorare mai. Ma noi non siamo puliti, sogniamo per non lavorare mai. Di palco, vediamo chi diventa la gamba. Ma in fondo non serve poi tanto. Ma in fondo non serve poi tanto. Se il nostro rumore non piace più, se il nostro sudore non piace più, non abbiamo altro da vendere. Credevamo fosse più facile. Ragazzi, sembra non siano puliti, almeno da come dicono in questa canzone, però sembrano essere simpatici e dei buoni rocker, quindi qui a Rock FM le porte sono aperte. Si chiamano Ministri, tra l'altro hanno anche fatto arrivare negli studi di Rock FM un prezioso CD con dei loro jingle per noi di Rock FM, quindi ringrazio ufficialmente gli amici Ministri. Magari fatevi una doccia la prossima volta, però. I soldi sono finiti, questo è il titolo del brano appena ascoltato. Tra l'altro spalleggio i Ministri sul fatto suoniamo per non lavorare mai. Ottimo concetto da sviluppare. UDJ Ariel presenta i Santi del Giorno, immancabili. DJ appuntamento fisso con la sfilza di Santi in corso in questo 23 di gennaio. Rullino i tamburi per San Amasio e per San Andrea Chong Tiong Hua Jong. Ci sono anche quelli orientali. Venerabile Benedetta Bianchi Porro e venerabile Clemente ed Agatangelo, Santa Emerenziana e San Giovanni l'Elemosiniere. Si prosegue con San Ildefonso da Toledo e San Maimbondo. Vedete un po' voi. Beata Margherita Molli e si conclude con un due classici Santi Severiano e Aquila. E via! Come on baby! It's rock and roll! Yeah. too big. Yeah. Yeah. He's just too much gas. Some folks say it's too long. You go just a little too fast. But my love is bigger than a Honda truck. It's bigger than a Subaru. Hey man, there's only one thing and there's one car that will do. Anywhere we're gonna have to drive it. We can park it out and back. Have a party. Sfrecciamo nel pomeriggio di Rock FM con la nostra Cadillac, ovviamente tutta rosa, perché siamo un po' così noi di Frigider, no? Pink Cadillac, Jerry Lee Lewis, dal mastodontico ultimo lavoro pubblicato da Edel, super super consigliatissimo. Conosco gente che da quando è uscito Last Man Standing, questo nuovo lavoro di Jerry Lee Lewis, non passa giorno senza ascoltarselo almeno un paio di volte per intero, e la cosa sembra funzionare. E tra l'altro lo saluto pure il buon Bruno di Rock TV, se c'è all'ascolto qualcuno si sta trasferendo dalle parti di Rock TV, porti i miei saluti al buon Bruno, che so passare giornate intere ad ascoltarsi Last Man Standing, dicevo il capolavoro di duetti che ci ha regalato a fine 2006 il maestro Jerry Lee Lewis, nello specifico Pink Cadillac, ve lo ricordo spesso e volentieri, è in duetto con un certo Bruce Springsteen. Che ci volete fare? Jerry è uno che nella rubrica i numeri di telefono ce li ha, e anche se non ce li ha saltano fuori al volo, no? Cara mucca Camilla, hai ragione, avrebbe potuto chiamare anche a me Jerry Lee Lewis, probabilmente, ecco, aveva perso il numero mio specifico, però d'altra parte lo capisco, quello di Bruce Springsteen rispetto al mio numero di telefono è ovvio che lo tieni un po' meglio, no? Cioè, va bene, e si prosegue con del buon rock and roll targato Block Party, ed è festa a blocco, subito, The Prayer. It's a right to crave recognition. Second best. Run through the heart. It's a right. fanno ballare mezzo mondo con il loro ritmo indie rock, Block Party, The Prayer. Siamo pronti a prendere il primo pit stop di oggi pomeriggio. Non vi ho ancora nemmeno mai ricordato le nostre coordinate, stupido io. 338 6171 300, il nostro classico numero di SMS, e invece ariel@radiorockfm.com. ci si risente tra pochissimo con la premiata rubrica il CD della settimana, anche quest'oggi appuntamento con Cold War Kids. Restate lì. E tutti i volti che siamo stati a frigide, e c'era DJ Ariel, e DJ Ariel, ma lui era sempre dentro la robot che ci faceva. Non lo sapeva, forse cercava i suoi CD più belli, quelli che teneva sempre dentro la Peugeot. Oh DJ, DJ, DJ. Oh, ve l'ho detto da subito che avremmo ascoltato grande musica, poi lo so come siete fatti. Se qualcuno dice no, beh, lo dice così tanto per dire. E invece no. U2, YouTube, Windows in the Sky. Inedito contenuto. Nell'ennesima raccoltona di successi targata U2. A proposito di successi, speriamo di successo ne facciano i giovani ragazzi che vi presentiamo questa settimana all'interno della rubrica Il CD della settimana, una bella novità che vi presentiamo dal lunedì al venerdì. Segnatevi questo nome nel caso vi piacciano i brani che vi stiamo programmando in questi giorni. Loro si chiamano Cold War Kids. Il lavoro è intitolato Rubbers and Cowards e giorno per giorno vi programmiamo una traccia differente dal lavoro di questi giovani ragazzotti. Nello specifico quest'oggi vado ad augurarvi un buon ascolto con la traccia numero 4 intitolata Air Down. Si chiamano Cold War Kids. Il CD della settimana. Conversations that went on terrible past. Don't talk about that. No, no, don't talk about that. We're coming back loud and in this conversation. Said you let your hair down. You got enough to go around, oh man. Said you let your hair down. You've been telling me that since the day we met. She's laughing like a choir girl. She's laughing like a choir girl. She's laughing like a choir girl. When she doubles over, sounds like Kids. Gran voce in questa traccia numero 4. Si intitolava Air Down, traccia numero 4 di Roberts and Cowards. Il titolo del lavoro che vi presentiamo, che abbiamo iniziato a presentarvi da ieri e che continueremo a presentarvi fino a venerdì, il CD della settimana, nel pomeriggio di Frigidaire nel mattino con Marco Garavelli e il suo Rock Discount. Come di consueto, dopo la bella novità del CD della settimana, Rock FM ci tiene a presentarvi una perla del passato. Quest'oggi ci si diverte. Non ci credete? Sentite qua. Rock FM. The best rock and roll station in the world. It's Rock FM. Vi dicessi Kiss? Vi dicessi God gave rock and roll to you? A voi Dio ve l'ha dato il rock and roll, se no dovete girare stazione, ragazzi, a squarciagola. La storia è molto semplice: Dio ti ha dato il rock and roll, Dio ha messo il rock and roll nell'anima di tutti. Siamo a neanche metà di Frigidaire. Yeah, diglielo Paul. Arrivano i Kiss e la giornata si svolta. Non è così? Questo brano è dedicato alla schiera di radioascoltatori, quelli sintonizzati dagli uffici, quelli che devono litigare quotidianamente con i superiori, con i colleghi, che credono stupidamente di non avere il rock and roll dentro di sé, e invece questo brano ne è la testimonianza. Dio ha dato il rock and roll a tutti quanti, anche a voi cari capi ufficio che non volete far ascoltare il rock and roll ai vostri lavoratori. Prendetene atto, anche voi avete dentro il rock and roll, lasciatevi andare, crea un po' di astinenza, insomma, poi lo dovete sentire sempre, ma è buono il rock and roll, è roba buona. Riprendiamo con qualcosa di un po' più contemporaneo, ma sempre tosto. Audioslave, Revelation. Ah, questo martedì, ragazzi, vi martello, una promessa, fino alle 17. Don't talk to me about fame. Don't tell me about your lyrics, cause your songs are all the same. There's 11 on the guest list, probably more by far. Photographers and magazines and stacks of A&R. Don't forget about the birds. They don't need names or tickets to the ones in denim skirts. New highlights for the weekend, lipstick on a tee. Brand new tops and bottoms, not no knickers underneath. We're gonna sign a deal. We know a guy in Camden who says that we're unreal. And while we are in London, we'll stop and see the Queen. You know we'll all have night by the time we're 23. Body, the same as when you went. You didn't get your deal and your money's all been spent. I could have told you long ago, but you'd never understand. No bollocks to be heroes. Questo fortissimo accento che segna la loro provenienza al di là della Manica, si chiamano Little Man Tate. Voi di Frigidaire dovreste conoscerli molto bene perché sono stati CD della settimana di qualche giro fa, nuovo singolo per loro, Man I Hate Your Band, uomo io non sopporto la tua banda, canzone forse dedicata a qualche fan che odiava i Little Man Tate e quindi hanno deciso di dedicargli questa canzone. Il tempo come al solito galoppa nei pomeriggi di Frigidaire, stiamo già per terminare la prima ora di quest'oggi, ne approfitto per ricordarvi che nella seconda ho qualche buona notizia da dare agli amanti del buon rock and roll di qualche annetto fa e soprattutto avremo l'appuntamento quotidiano con il nostro disco da scongelare e per chi non fosse stato attento alla puntata di ieri abbiamo iniziato il nuovo viaggio con della buona musica italiana, anche quest'oggi ascolteremo un brano tratto da Catartica, primo lavoro di Marlene Kunz e sicuramente invece andremo a chiudere poi le due ore con il nostro 3x1, mentre come ogni giorno facciamo la prima ora di diretta si conclude con il passaggio preciso della nostra Rock Shock della settimana. Da ieri ogni due ore in alta rotazione Within Temptation, il nuovo brano What Have You Done. Rock Shock. O Venuzzo ti piace la sigarettella virè, Frigiderre tu sente ogni giorno alle tre. Hai 30 anni e ti miaghi e uscire peggio di me. Lo stipendio tu mangi e arda con la buono a pubblicità. Listening to Rock FM. guarda un po' te, i giochi del destino. Abbiamo iniziato l'appuntamento odierno di Frigidaire con Dave Grohl e i suoi Foo Fighters e iniziamo la seconda ora di quest'oggi invece con un Dave Grohl alla batteria, ovviamente con Nirvana, il classicone Smell Like Teen Spirit. E allora bentornati sulle frequenze di Rock FM, un'altra ora a nostra disposizione, visto che abbiamo iniziato in pieni anni 90, quasi quasi io l'appuntamento con il disco da scongelare lo piazzo subito, perché ci facciamo una doppietta niente male. Dicevamo Catartica, Marlene Kunz, siamo a Cuneo nel Piemonte, che conta poco, nel 1994. Questo è l'album che vi presenteremo fino a venerdì. Vorrei farvi notare quest'oggi i ringraziamenti contenuti in questo lavoro, in particolare gli ultimi ringraziamenti vengono fatti a Gianni Maroccolo, Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti. Questo per segnalare che ovviamente l'etichetta che diede poi alle stampe questo capolavoro dei Marlene Kunz era il Consorzio Produttori Indipendenti, che era un'etichetta sicuramente molto collegata ai da poco nati CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, con Zamboni, la premiata coppia Zamboni, Ferretti e Maroccolo. E questi Marlene, questo Catartica, fu, se non ricordo male, proprio uno dei primi nomi sui quali contarono, sui quali puntarono questo consorzio produttori indipendenti, vedendo decisamente lungo, perché poi Marlene, come ho accennato anche ieri, stanno continuando in pompa magna la loro carriera, come è giusto che sia, addirittura anche all'estero. Torniamo però ad ascoltare questo Catartica. Molti parlando di Marlene fanno riferimento ai Sonic Youth italiani, lo si può intuire anche dall'intro della traccia che vi sto programmando quest'oggi, nello specifico è la traccia numero 3. Questo è un lavoro pieno di belle canzoni, ve le potrei programmare tutte quante, sono tutte belle, forse perché piacciono a me, no, spero di no, spero sia oggettivo il giudizio che sto dando. Come accennavo già ieri, un lavoro grezzo, il primo lavoro di una formazione, quindi come al solito con un po' di spigolature che, seguendo la teoria del DJ Ariele, danno plusvalore al tutto. È la traccia numero 3, si chiama Sonica e loro sono i Marlene Kunz. Orso si sposta nebulosamente nel passo irregolare, anzi nel flusso irregolare della gente, pardon. capolavoro di scrittura con 10 punti in particolar modo ai bellissimi testi scritti come sempre dal buon Cristiano Godano, vecchio amico di Frigidaire tra l'altro, spesso e volentieri Marlene passano a raccontarci dei loro lavori, delle loro nuove pubblicazioni, sono passati anche poco tempo fa. Fragori nella mente, rumori, dolori, lampi, tuoni e saette, schianti di latte, fragori e albori di guerre universali, scontri letali, sonica, sonica. Era il brano di quest'oggi, in realtà intitolato semplicemente Sonica, Marlene Kunz, Marlene la migliore, tratto da Catartica, il disco da scongelare che vi stiamo consigliando questa settimana. Loro invece sono i Matchbox 20, c'è qualcuno che ascolta ancora i Matchbox 20? Questa è Push. I've ever been good enough. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. Well, this ain't over. No, not here. Not while I still need you loving. You don't hold me. We're not changing. Yeah, we just might feel good. I wanna push you way around. Well, I will. Well, I will. I wanna push you down. Well, I'm a little untrusting when I think that the truth is gonna hurt ya. And I don't know why you couldn't just stay with me. You couldn't stand to be near me when my face don't seem to wanna shine. Cause it's a little bit dirty. Oh well, don't just stand there, say nice things to me. Cause I've been cheated, I've been wrong. Accontentati anche i fan dei Matchbox 20, questa era Push. Passiamo a una bella notizia per gli amanti del buon rock anni 70, con una bella spruzzatina di prog, una buona notizia riguardante i Jethro Tull. La EMI, meglio conosciuta come EMI, etichetta discografica, rende noto che pubblicherà nel prossimo mese di marzo una raccolta dei dei Jethro Tull che si intitolerà Best of Acoustic Jethro Tull. La tracklist non è stata ancora comunicata, al momento si sa solamente che come bonus track vi saranno alcuni brani in versione acustica registrati in concerto. D'altra parte, chiamandolo Best of Acoustic Jethro Tull, l'acustico ci sarà sicuramente, no? Intanto i Jethro Tull, ovviamente sempre capitanati dal buon Ian Anderson, hanno pianificato il calendario dei concerti fino alla prossima metà di luglio. Si inizierà il 23 di marzo, ovviamente dal Regno Unito. Purtroppo non ci sono appuntamenti italiani previsti, gli appuntamenti più vicini oltre a Londra potrei segnalarvi Bruxelles, direi di no, potrei segnalarvi un 10 giugno a Berlino, questa potrebbe essere la data più vicina per quanto riguarda il prossimo tour dei Jethro Tull, la data più vicina al nostro paese, visto che appunto l'Italia non verrà toccata dal passaggio dei Jethro Tull. Buona scusa per ascoltarci una classica Aqualung, che ne dite? A marzo, nuovo lavoro di Jethro Tull, raccolta Best of Acoustic. To the fucking horse. just shot away anything. Your poor old son, you see, it's hurting me. Grande musica di Rock FM, aiutati dal grande sound dei Jethro Tull, Aqualung nel pomeriggio di Frigidaire, per annunciarvi questa prossima raccolta acustica dei brani di Jethro Tull con qualche registrazione dal vivo come chicca in più. Stiamo per terminare anche quest'altra mezz'ora, tra poco l'ultima a nostra disposizione con l'appuntamento del 3x1. Ho ancora un brano che ci possiamo gustare insieme. Sterziamo decisamente dagli anni 70, torniamo agli anni 90. Yeah, get funky baby, Red Hot Chili Peppers. Questa è Give It Away. Però voi restate qui, eh? Fight up. La Nazione e la Fondazione Umberto Veronesi presentano l'Enciclopedia della Salute, un'opera chiara, pratica ed autorevole per una salute sempre più consapevole. Ogni lunedì con La Nazione ti aspetta l'Enciclopedia della Salute. Sapere aiuta a stare meglio. Da un tatuatore non professionista. Salve. Ai, oh, ai, ai. Non troppo. Se invece cerchi competenza e professionalità, Laserline Art Tattoo. L'igiene è il primo servizio che offriamo. Laserline Art Tattoo, professional body piercing, lo trovi a Firenze in Via di Novoli 42, il più grande centro di tatuaggi e body piercing della Toscana. 055 41 6318. Nuovo negozio Laserline 2, abbigliamento Lucky 13, Nightmare Before Christmas, Via di Novoli 85, Firenze. You're listening to Rock FM. Rock FM. Say hands up, baby, don't you dare go down. Cause it's so fun. I won't barricade me to your wonder town. And never have no way I'm gonna turn that down. Chili Peppers, è l'ultima mezz'ora, l'ultimo blocco di questo martedì pomeriggio targato Frigidaire. Inizia con Little Barry e il brano Love You. Pete Doherty con i suoi zozzoni Baby Shambles, già partiti in sottofondo. Nuovo singolo, The Blinding. Let me show the blind game. Last thing you'll ever see. She might be free, oh, freer. Freer than you've ever been. What will you do? She runs out of time for you. dalla Londra che si droga, Baby Chambers, nell'appuntamento di questo 23 gennaio in compagnia di Frigidaire. Occupiamoci di 3x1, le nostre triplette, senza alcun tipo di interruzione, né mio né pubblicitario. Tre brani in fila in rigoroso ordine alfabetico. Stiamo viaggiando ormai da settimane sotto la lettera M del nostro palinsesto e quest'oggi incappiamo nel viaggio dei Master Plan. 3x1. Frigidaire. Yeah. metallo colato e doppia cassa per l'appuntamento del 3x1 di quest'oggi targato Master Plan. Abbiamo iniziato la tripletta con Enlighten Me, abbiamo proseguito con Back for My Life e l'ultimo singolo appena sfumato era Crimson Rider, 3x1 targato Master Plan, e si riprende con la programmazione normale tra virgolette con Papa Roach, vecchio classico Between Angels and Insects. There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that. Take my money, take my obsession. Appuntamento di quest'oggi con Frigidaire, un ultimo brano da programmare nel quale ho un interessante appuntamento da ricordarvi per la nottata milanese che ci apprestiamo a vivere, spero insieme. E invece, prima di concludere, un appuntamento con il weekend, l'invito che vi faccio è di passare a trovarmi questo sabato al Nautilus di Cardano al Campio, c'ho questa cosa che non riesco a dire Cardano al Campo, al Nautilus di Cardano al Campo, il tempio del rock and roll. Hai capito? La dislessia mi viene perché sto pensando al tempio, quindi mi viene Cardano al Campio. Vabbè, ci siamo capiti. Questo sabato Pay in versione punk rock con tutta la banda al completo e ospite d'eccezione il buon Holly Day the Fire. Invece dicevo, questa sera, se non avete ancora organizzato nulla, io un drittone ve lo posso dare. Alcatraz di Milano, Europe. Io me li sono già persi lo scorso giro, questa sera non me li perdo. Chiudiamo l'appuntamento di quest'oggi di Frigidaire con una classicerrima, The Final Countdown. Grazie per essere stati con noi. In radio ci si risente domani, sempre dalle 15 alle 17, il pomeriggio di Rock FM con Frigidaire's Bella Europe. ascoltare.